Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria che si chiama soprattutto Libia, quello che sta capitando a Tripoli in Cirenaica, ma anche le ripercussioni sui mercati. Devo dire, lo diciamo subito, che Milano tra le borse è quella che perde di più, perde il 3,5% per un motivo molto semplice: la nostra esposizione verso la Libia è molto forte, e le nostre imprese, le grandi e anche le piccole, sono molto presenti lì, circa 1500 gli italiani presenti in Libia secondo la Farnesina, presenti in pianta stabile, e di cui si sta realizzando l'evacuazione in molti casi. Avremo quattro imprenditori, dei medi imprenditori, medi piccoli imprenditori, che chiaramente sono ancora più in difficoltà perché non hanno le strutture per quello che riguarda la gestione delle emergenze che hanno i grandi gruppi, i centri di crisi che può avere l'ENI o il gruppo Finmeccanica, che è lì presente con Ansaldo. E questo è il fronte delle imprese italiane in Libia. E la borsa però va così male a Milano anche e soprattutto per via di Unicredito, che perde il 5,70%. Che cosa è successo? Beh, come alcuni di voi ricordano, i libici hanno una quota in Unicredito, fu la quota del fondo sovrano libico del 7% in Unicredito. Se ricorderete, quello fu anche il motivo per cui alla fine si scatenò lo scontro con l'allora numero uno Alessandro Profumo, cioè il fatto di aver fatto entrare i libici senza aver avvertito, diciamo, il consiglio di amministrazione, senza aver informato il presidente. Il 7,5% è appunto la quota libica dentro Unicredito, ce l'ha la banca centrale più un fondo sovrano libico, cioè la somma della quantità che ha la banca centrale libica e del fondo sovrano libico in Unicredito è del 7%. Chiaro è che con quello che sta succedendo a Tripoli le tensioni vadano a ripercuotersi soprattutto su Unicredito e su Impregilo, altro gruppo italiano molto presente in Libia. E poi l'ENI perde il 5%, l'Ansaldo STS perde il 4,60%, è ovvio che ne viene toccata anche Finmeccanica, sebbene in maniera minore, meno 2,5%. Quando va male un titolo come Unicredito, un titolo come ENI, è ovvio che la nostra borsa, dove questi due titoli pesano moltissimo, perde più delle altre. Infatti Parigi perde l'1,5%, Francoforte l'1,5%, Londra l'1%, l'America è chiusa, potremmo dire quasi per fortuna. Oggi si festeggia infatti la ricorrenza del President Day di George Washington, per cui la Wall Street è tutta chiusa. L'euro è a quota 1,367, non è l'euro in questo momento a preoccupare, ma è il petrolio, che è tornato ampiamente sopra i $100 al barile. Dedicheremo buona parte di questo programma alla situazione in Libia dal punto di vista anche e soprattutto economico, poi come sempre i mercati finanziari e altri temi. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora rapidamente le altre notizie in breve. Volete sapere anche degli altri titoli? Avete ragione, oltre a Impregilo meno 6,1 e Unicredito meno 5,7, Fondiaria perde il 5,30 come Banco Popolare, il 5% lo perde Ubibanca, il 5% l'ENI appunto e anche Intesa San Paolo, il 4,90 il calo della Popolare di Milano, il 4,60 quello di Ansaldo STS, il 4,20 Mediobanca, il 4,1 Monte dei Paschi e Mediolanum, ma anche Exor, il 4% è il calo di Saipem, altro gruppo fortemente presente in Libia, il 3,90 quello di Azimut e di Fiat, il 3,1 Fiat Industrial, il 3% Generali, il 2,60 Finmeccanica, il 2,4 perde l'automatica ma anche Prismian, il 2,1 di Asori. Non c'è niente di positivo oggi, chi perde meno degli altri è ST Microelectronics meno 0,20, Parmalat meno 0,40, niente di positivo tra i titoli a maggiore capitalizzazione chiaramente. Allora, arriviamo alla Libia, devo dire una cosa, è inutile anche in questo caso buttarla in politica e dire Berlusconi amico di Mubarak, Berlusconi amico di Gheddafi. Qui c'è un problema che riguarda tutto il Nord Africa, lo sappiamo, in Tunisia è stato gestito in maniera praticamente quasi pacifica. In Egitto è stata una rivoluzione che ha provocato dei morti, ma oggettivamente in maniera giudicata tutto sommato anche accettabile come passaggio di consegne. In Libia le cose invece buttano male, i morti sono già 230, ma anche qui le notizie, è impossibile parlare con la Libia, internet è chiuso. Le notizie non stanno arrivando con tutta questa facilità. Ci basiamo, come vi hanno detto i nostri GR, sulle notizie che vengono fatte filtrare da Human Rights, per esempio, che parla di 233 morti fino adesso. Spiego anche che il problema non è delle azioni Unicredit o Finmeccanica acquistate dalla Libia. Il problema su Unicredit è la quota libica. Nella maggior parte dei casi quello che stiamo cercando di capire è come stanno i nostri lavoratori tecnici, ingegneri presenti in Libia, ed ecco perché avremo quattro imprese che lavorano come subfornitori soprattutto in Libia. Ma andiamo con ordine. L'oro è in rialzo a 1.396 dollari, l'argento ha aggiornato il massimo da 30 anni a 33,14 dollari l'oncia, anche per l'argento, e il petrolio a Londra è volato ai massimi dal settembre del 2008, ossia da prima che scoppiasse la crisi, 105 dollari al barile. Voglio dare però anche qualche notizia di carattere italiano prima di arrivare subito alla Libia. Allora, come vanno le nostre esportazioni e il nostro deficit commerciale? Nei paesi fuori dall'Unione Europea si è amplificato ulteriormente, cioè da meno 3,4 miliardi di gennaio 2010 siamo passati a un deficit commerciale di quasi 6 miliardi. Questo nonostante le esportazioni fuori dall'Europa italiane siano aumentate del 35%, le importazioni però sono cresciute molto, sono cresciute del 46%. Allora, i tagli alla spesa sociale, secondo vari studi, poi ne parleremo, i tagli che colpiranno la spesa sociale nel 2011 saranno azzerati sia il fondo per la non autosufficienza, cioè le risorse per l'assistenza ai portatori di handicap, sia il fondo servizi per l'infanzia e asili nido. E il fondo nazionale per le politiche sociali si ferma a 275 milioni contro i 450 del 2010. E le dotazioni per la politica per la famiglia passano da 185 a 52 milioni di euro, pesanti tagli sul fronte sociale. Domani vi dedicheremo un approfondimento. E praticamente, se l'anno scorso ha ricevuto l'insieme dei fondi sociali, anzi nel 2008 ha ricevuto 2 miliardi di euro, oggi siamo a un quarto, cioè a 500 milioni scarsi. Volete sapere anche della vicenda del Pio Albergo Trivuzzo, che stiamo seguendo con interesse da un paio di settimane? Allora, oggi arriverà la lista dei 40 immobili venduti negli ultimi 5 anni. Ci sono già casi non limpidi, cioè prezzi particolarmente vantaggiosi e immobili ceduti in maniera non con procedure non limpide. Casi come quello dell'appartamento a 110 metri quadri in Corso Sempione, venduto all'assessore regionale alla casa Domenico Zambetti, 530.000 euro. E poi Giuseppe Marotta, direttore sportivo della Juventus, per i suoi 49 metri quadri. La figlia di Marcello Dell'Utri, 83 metri quadri in piazza Mirabello, spende 1.089 euro. La lista dei vari nomi, quelli degli affittuari, lo sapete, è presente anche sul sito del Sole 24 Ore. Poi c'è l'altra vicenda che stiamo seguendo, ossia dentro il decreto mille proroghe c'è la sospensione dell'abbattimento delle case in Campania, 65.000 abitazioni, il 25% del totale italiano, case abusive, si trova in Campania, e fin lì la risposta del ministro Brambilla, l'avete sentita venerdì, dice insomma bisognerebbe capire perché le hanno costruite. Noi avevamo posto l'attenzione solo su quelle in siti archeologici e in zone tutelate, almeno quelle, visto che sono case per cui il tribunale ha già deciso l'abbattimento. Allora pensate che sono tutte state sospese questi abbattimenti fino al 31 dicembre, ma tra gli abusi campani esiste un caso di un mega resort, un mega albergo con un migliaio di posti letti, costato 25 milioni di euro, finanziato in parte con contributi pubblici. si chiama Stella Maris, a nord di Napoli, comprende 300 bungalow, due alberghi con piscine, ristoranti, collocati in un bosco di 20 ettari. Ma la cosa che fa impazzire è che il terreno è di proprietà della regione Campania ed è anche sottoposto a particolari vincoli paesaggistici, archeologici ed ambientali. Tutte le autorizzazioni sono state realizzate, tutte le costruzioni sono state realizzate senza ottenere alcun permesso edilizio, è sotto sequestro la struttura, truffa aggravata e altri capi di imputazione. La cosa incredibile, ripeto, è che dentro il terreno di proprietà della regione Campania. Mentre a Prato hanno trovato i militari della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'indagine, hanno sequestrato 4.000 tonnellate di tessuto irregolare all'interno di tre aziende cinesi. Sono per la precisione 125.000 rotoli. Pensate che la superficie dei tessuti sequestrati dalla Guardia di Finanza a Prato corrisponde a 2.000 campi di calcio. Dal resto del Nord Africa oggi arriva la notizia che il procuratore generale egiziano ha ordinato il blocco dei beni che la famiglia Mubarak possiede all'estero, quindi non solo Hosni Mubarak ma anche la moglie e i familiari. In Algeria la polizia ha disperso con violenza e parecchi studenti feriti, ha disperso una manifestazione, ma è chiaro che tutta l'attenzione oggi è concentrata sulla Libia. L'Italia è uno dei partner principali della Libia e allora parliamo di Libia, ne parleremo a lungo durante la puntata odierna di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora andiamo con ordine. Settimo giorno di inizio degli scontri, la rivolta non risparmia più nemmeno Tripoli. Faccio un breve riassunto, anche se i nostri GR vi stanno aggiornando da questa mattina. Saccheggiata la sede della TV di Stato, l'ufficio del governo centrale e altri pubblici uffici sono stati incendiati. Secondo Human Rights, dall'inizio degli scontri ci sarebbero a questo punto 233 morti, secondo fonti mediche non confermate vi sarebbero stati 61 morti solo oggi. Intanto gli ambasciatori libici in Cina e in India si sono dimessi, unanime la condanna internazionale. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha fatto appello a non ricorrere all'uso della violenza e gli Stati Uniti stanno valutando tutte le azioni appropriate. E poi le voci difficilmente verificabili in questo momento, fonti libiche hanno fatto sapere alla TV satellitare Al Jazeera che all'interno dell'esercito libico vi sarebbero grandi tensioni al punto da poter prevedere che il capo di Stato Maggiore aggiunto, El Mahaid El Arabi, possa dirigere un colpo di Stato militare contro il colonnello Gheddafi, che ricordiamo Gheddafi lì dal 1969. E poi mezz'ora fa si è saputo che quattro delle principali tribù libiche, vera e propria spina dorsale del consenso di Gheddafi in Libia, starebbero marciando su Tripoli per unirsi alla rivolta contro il colonnello Gheddafi. Ancora si sarebbe dimesso circa due ore fa il ministro della giustizia libico come segno di protesta per l'eccessivo uso della violenza contro i manifestanti. Un gruppo di leader musulmani libici ha poi detto oggi che la rivolta contro la leadership libica è un dovere divino di ciascuno. Alcuni testimoni smentiscono che la Sirte, cioè la parte che guarda più verso, per capirci, verso l'Egitto della Libia, sia in mano ai rivoltosi, della parte dove i fondamentalisti islamici hanno anche più presa. Nel frattempo numero uno del colosso russo del gas Gazprom, Alexei Miller, ha detto: beh, attenzione, questi disordini nel Nord Africa richiedono una nuova analisi sull'affidabilità dei rifornimenti di energia all'Unione Europea. Immaginiamo che si sfreghi anche le mani Miller, visto che il gas noi lo compriamo o dall'Algeria o dalla Russia. Quarto produttore di petrolio al mondo, questa è la Libia, 1.800.000 barili al giorno, dopo Nigeria, Algeria e Angola troviamo infatti la Libia, è all'ottavo posto come riserve di greggio, valutate in 42 miliardi di barili, e poi il gas, perché ha 1.500.000.000 di riserve di metri cubi di gas, in tre anni ha quasi raddoppiato l'export. E poi il legame con l'Italia, oltre 100 le imprese presenti in Libia, 1500 secondo la Farnesina i nostri connazionali che vivono stabilmente in Libia, per cui questo numero non include tutti quelli che sono in questo momento in Libia o dovessero essere in Libia per motivi di lavoro e in maniera temporanea. Tra l'altro il trattato di amicizia italo-libico del 2008 prevede il versamento alla Libia di 5 miliardi di dollari in 20 anni da parte dell'Italia, ma al di là di questo, insomma, noi restiamo uno dei partner principali della Libia, siamo il terzo investitore europeo in Libia, il quinto a livello mondiale, come ci racconta questa scheda. Quarto paese africano per ordine di grandezza, circa 6 milioni di abitanti su una superficie quasi 6 volte l'Italia, la Libia ha un'economia dinamica. Il PIL è stato stimato nel 2010 intorno al 5%. E nella corsa alle opportunità del mercato libico, l'Italia è in pole position. Siamo infatti il primo esportatore e quinto importatore del paese, con un interscambio commerciale vicino a 7 miliardi di euro nei primi 6 mesi del 2010. In questo periodo il nostro export è salito del 4% a 1,2 miliardi di euro, mentre il nostro import è cresciuto di quasi il 15% a 5,6 miliardi. Sbilanciato dunque a favore di Tripoli il saldo commerciale per oltre 4 miliardi. La parte del leone nel nostro import la giocano gli idrocarburi, rappresentano il 95% dei nostri acquisti dalla Libia, mentre noi esportiamo soprattutto prodotti petroliferi raffinati e macchinari. L'Italia è anche il terzo investitore europeo in Libia, escludendo il petrolio, e il quinto mondiale. E l'importanza del mercato libico per noi è testimoniata dalle oltre 100 nostre imprese nel paese. Fra le più attive Enel, Trevi, Impregilo, Italcementi, Telecom, Iveco, Edison e Finmeccanica. Risale al 1959 la presenza di Eni, che pompa dai pozzi petroliferi quasi il 30% del greggio importato dall'Italia. Accanto all'oro nero, la Libia ci fornisce anche il gas ed è il nostro terzo fornitore. Le opportunità inoltre per le nostre imprese passano anche dall'ammodernamento dei porti, delle strutture turistiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Ma se noi siamo presenti in Libia, anche la Libia è presente in Italia. È al 7,5% la partecipazione complessiva in Unicredit, della Banca Centrale Libica e del Fondo Sovrano di Tripoli. Un investimento che si somma a quello storico al 7,5% nella Juventus, al recente ingresso all'1% in Eni e al 2% in Finmeccanica. Questa la presenza italiana in Libia, primo esportatore, quinto importatore, ma anche la presenza libica in Italia. Continuate a chiedere al 349-238-6666 cosa c'entra sulla borsa, ma insomma non ci vuole un genio per capire che se cambia l'intero assetto di potere in Libia, anche le partecipazioni in Unicredito in primo luogo, che sono il 7,5%, ma in Finmeccanica al 2%, all'1% in Eni, e poi quello storico nella Juventus, diciamo, possiamo anche un attimo ignorarlo, il 7,5%, beh, vanno rivalutate. Ancora sui vari grandi gruppi vi leggo brevemente alcune dichiarazioni dei vertici, perché abbiamo provato tutto il giorno a parlare con gli italiani che stanno in questo momento in Libia. Vi assicuro, è impossibile raggiungere la linea. Allora, Impregilo, che ha commesse per 260 milioni di euro in Libia, il presidente Massimo Ponzellini ha detto c'è qualche preoccupazione ma noi siamo ancora ottimisti. Finmeccanica invece sta rimpatriando i dipendenti, abbiamo parlato direttamente con l'ufficio stampa di Finmeccanica e sarebbero tra gli 8 e 10, 8 persone, non erano tantissime le persone in questo momento giù in Libia, che hanno già fatto evacuare in condizioni di emergenza e stanno rientrando in Italia. Finmeccanica ha commesse però in Libia per 1 miliardo di euro, un contratto da 300 milioni di euro per il controllo elettronico del confine sud affidato alla Selex, sistemi integrati del gruppo Finmeccanica, e poi Ansaldo STS che ha contratti da 750 milioni per i sistemi ferroviari. e questo poi pesa sui titoli in borsa. Unicredito, allora Palenzona, Fabrizio Palenzona, che è vicepresidente, ha detto: guardate, sono preoccupato più per i poveri ragazzi della Libia che stanno soffrendo, il resto si aggiusta tutto. Per cui queste le dichiarazioni di Palenzona, obiettivamente nel caso di Unicredito è più una quota. E poi gli italiani che sono presenti in Libia, abbiamo raggiunto grazie anche al lavoro di Barbara Bianchi, Mauro Del Conno, alcuni di questi imprenditori. Allora io li saluto, mi sembra che siano tutti e quattro in collegamento. Grazie quindi a Francesco Cammarata, che è business manager di Techint Italia, è un gruppo che realizza impianti nell'industria petrolifera del gas. Per il gruppo Eni, un campo gas a sud di Tripoli è in realizzazione, sono 2500 addetti, non solo in Libia. Buonasera. Buonasera. Grazie anche a Giovanni Incerti Massimini, che è titolare della Italfarm, un'azienda più piccola di Reggio Emilia, progetta e realizza impianti agricoli per il trattamento degli ortaggi, opera in prevalenza in Nord Africa, e hanno rimpatriato quasi tutti, ma adesso ci racconterà la situazione. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, io vi saluto tutti, poi con calma vi farò le domande. Grazie anche a Aldo Bevilacqua, che è responsabile estero della GEM SPA, è una società di impiantistica industriale della provincia di Vicenza. Buonasera, dottor Bevilacqua. Buonasera. E infine anche Federico Santelli, responsabile della relazione esterna del gruppo Bonatti. Voi fornite servizi di ingegneria, costruzione e manutenzione dell'industria petrolifera in Libia. Buonasera, dottor Santelli. Buonasera a tutti. Vorrei partire da lei, perché se ho ben capito è quello che ha il maggior numero di persone presenti sul territorio, di quelli che ho citato. Quante persone avete in Libia? Per quanto riguarda Bonatti abbiamo oltre 1000 dipendenti. Italiani sono? Italiani ammontano a circa 45-50. Ecco, dove si trovano i vostri stabilimenti? Noi siamo in Libia da molti anni e nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di diffonderci capillarmente dappertutto. Copriamo almeno 12 aree di lavoro a servizio delle società petrolifere, ma anche delle società per infrastrutture e costruzioni edili. Quindi siamo anche in quelle zone focolaio di protesta di già giorni fa, quindi nella zona orientale, siamo presenti Cirenaica. Nella Cirenaica, esatto, ma anche nei deserti giusto prospicenti alla Cirenaica. Siamo a Tripoli come base e stiamo attuando un piano di sicurezza per ciascuno dei 1000 dipendenti che con noi lavorano. Ecco, chiaramente tutti i dipendenti sono importanti, noi in questo momento ci concentriamo sugli italiani, che diceva essere una quarantina, sì, cinquantina. La maggior parte degli italiani del vostro gruppo sono a Tripoli o sono anche sparsi nelle aree che lei citava, a partire dalla Cirenaica e dal deserto? Credo che ormai siano per la maggior parte a Tripoli, perché il piano di sicurezza prevederebbe anche una forma di rimpatrio, che è probabilmente già iniziato. Dalle ultime informazioni siamo in attesa di valutare, insieme all'unità di crisi di Roma, insieme ai clienti che sono nelle stesse condizioni, insieme all'ambasciata d'Italia, questa possibilità, che comunque è concreta. Ecco, mi faccio capire, siccome noi non riusciamo a parlare con la Libia, voi siete riusciti a parlare con la Libia? Mi risulta che internet funzioni, abbiamo avuto dei contatti via Skype senza problemi. E come stanno? Noi ci abbiamo provato ma abbiamo avuto difficoltà. Comunque, come stanno i dipendenti italiani? Ma abbastanza bene, abbastanza bene. È quella abbastanza che mi incuriosisce. No, devo dire bene, insomma, non sono io quello che ha mantenuto il legame diretto e le conversazioni con gli interessati, però abbiamo fatto in modo che chi è sul posto parli direttamente con l'ambasciatore e con l'unità di crisi di Roma, quindi non ci sono problemi al momento e devo dire che assolutamente bene, più che abbastanza. Ecco, voi comunque mi conferma che li avete, quelli che erano dislocati negli stabilimenti più lontani, li avete fatti convergere su Tripoli? Non so dirle con certezza questa informazione, anche per questioni di sicurezza. Non me ne può dare. Preferirei di no, ma il piano di sicurezza prevede comunque un radunamento in zone chiave, piuttosto che una dispersione, come certo può essere naturale. Mi può dire, per quello che può dire, quali sono i principali problemi che avete trovato in questi giorni, in queste ore, nella gestire appunto le politiche e gli elementi di emergenza per questi dipendenti? come tutti stanno portando avanti il piano di sicurezza, di emergenza, innanzitutto un'informazione su tutto il personale che possa essere messo comunque al corrente di quello che ogni territorio può rappresentare per la propria incolumità. E in secondo luogo una disposizione a mobilitarsi o da subito o il prima possibile per mettersi comunque in salvo da eventuali condizioni. Io devo dire che la situazione è precipitata in particolare nelle ultime ore, nelle ultime 24 ore, quindi possiamo anche dire non le risulta, mi scusi, di alcun dipendente che sia stato ferito, abbia avuto problemi? No, niente affatto, l'avrei detto altrimenti. Perfetto, meglio così. Io chiedo ancora qualche minuto di pazienza al dottor Bevilacqua, a Incerti Massimini e a Cammarata. Ho il meteo e la pubblicità, poi vi terrò anche perché oggi è la puntata tra la borsa e le imprese italiane in Libia. La borsa con l'effetto libico è quasi monografica. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso arriveremo alla borsa. Per quello che riguarda i titoli, in pregiro ha chiuso con un meno 6,20%, Unicredit meno 5,80%, e i due più colpiti, è vero quello che dicono alcuni ascoltatori, anche Fondiaria meno 5,5%, Banca Popolare meno 5,5%, Intesa meno 5,1%, come l'ENI e come la Banca Popolare di Milano. Milano è sicuramente la peggiore, meno 3,60%. Grazie intanto al primo dei nostri ospiti che per fortuna ci ha raccontato come in realtà la situazione sia sotto controllo. Devo però leggere un'agenzia prima di passare agli altri ospiti, appena battuta, ossia secondo la TV Al Jazeera le forze aeree libiche starebbero colpendo i manifestanti a Tripoli, bombardandoli. Io mi auguro che chiaramente la notizia venga smentita, perché il bombardamento sui manifestanti, ahimè, ancora non l'avevamo visto. Comunque, dottor Cammarata, Tecnip Italia è la controllata italiana di un gruppo molto più grande. Quanti dipendenti avete in Libia, italiani? In questo momento non abbiamo nessuno, nel senso che è partito il nostro piano di warning già da 10 giorni fa. Avevamo, diciamo, in programma dovevano essere circa una decina di persone in questi periodi in Libia, perché stiamo costruendo una società di ingegneria, quindi stavamo lanciando questa iniziativa con diverse persone, eccetera. Solo che il gruppo, la sua struttura di HSE, che in qualche modo è molto, come dire, usa diversi canali di informazione e supposizione anche per paralleli accaduti in altre aree del mondo, quindi siamo riusciti ad evitare problematiche di varia natura in Egitto e così. Ma quanti italiani avevate in Libia prima di evacuarli? Diciamo che c'è stato un periodo in cui eravamo 12 persone, questo 3 settimane fa circa. Poi piano piano, insomma, è stato anche una normale operazione delle persone che dovevano rientrare per la natura. E l'ultima persona ieri è stata veramente dura, perché era difficile la comunicazione, però alla fine stamattina è riuscito a prendere il volo, è andato in Inghilterra attraverso un volo su Manchester e tornato in Italia. Ah, quindi avete fatto evacuare via Manchester. Quello valeva anche per Santelli. Io non vi chiedo cosa temete per i vostri contratti in Libia, perché forse è ancora prematuro capire, o la vostra esperienza che comunque i contratti verranno rispettati. Ma guardi, per quanto mi riguarda, noi abbiamo, diciamo, dei contratti, stavamo in fase di acquisizione di nuovi contratti, quindi una fase un po', come dire, intermedia tra la chiusura di progetti e l'apertura dei nuovi. Il nostro focus in questo momento era più l'ingegneria, quindi delle attività che tutto sommato possono essere a discrezione anche svolte fuori dal territorio, questo ovviamente mantenendone il paese e i suoi investimenti. E i nostri clienti sono fondamentalmente joint venture tra NOC, quindi la National Corporation, e società major estere, quindi soprattutto americani con Philips in UA, piuttosto che altre multinazionali, insomma, in altre realtà. Per cui non lo so quello che succederà. Questo è il problema. Adesso magari lo richiediamo anche a Santelli sui suoi investimenti in Libia. Vorrei però sentire anche il dottor Bevilacqua. Un'azienda più, abbiamo preso volutamente delle aziende medie e piccole, perché le grandi, ripeto, parlano già attraverso gli uffici stampa, le la gestione della crisi, l'unità di crisi, mi riferisco a Eni, Enel, Finmeccanica e quant'altro. Però, dottor Bevilacqua, voi che rapporto avete con la Libia? Perché stavate radunando alcuni dei vostri lavoratori. Quanti sono gli italiani vostri in Libia? Attualmente 12. 12. Dove? Sì. Ad Azzavia, che è una località a 40 km da Tripoli, in direzione verso la Tunisia, sul mare. Noi, il nostro campo, che di fatto poi è stato scelto dall'ambasciata italiana come punto di ricovero, di evacuazione eventualmente per altri italiani che fossero in zone un po' più disagiate, si trova vicino appunto alla raffineria di Azzavia, e 40 km grosso modo da Tripoli, quindi non in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista delle rivolte, però ovviamente sempre abbastanza a rischio in questo momento. Allora, ce lo puoi ridire perché è importante anche per noi. Chiaramente la Farnesina sta predisponendo i vari siti dove, come punto di raccolta. Il principale è Tripoli, come ci confermava Santelli, ma il vostro stabilimento in Libia è stato segnalato come uno dei sì, punti di raccolta. Un punto di raccolta. Noi abbiamo un campo, ormai sono 15 anni che abbiamo un campo che può accogliere fino a 80 persone. E poiché i nostri italiani sono meno, stiamo anche ovviamente accogliendo i nostri altri dipendenti espatriati, non italiani ma da altri paesi del mondo, dalle Filippine, dall'India, dalla Romania, dall'Egitto o dalla Tunisia, ha ancora la possibilità di accogliere altre persone, e quindi, vista anche la posizione abbastanza strategica, appunto essendo vicino a una raffineria abbastanza protetta normalmente, è stato eletto come punto di ricovero. Stanno arrivando da noi ormai 3-4 persone in questo momento. Ecco, gli italiani come pensate di evacuarli? Gli italiani sono prenotati sui voli da domani e dopodomani, quindi rientreranno i nostri fino ad esaurimento, salvo appunto che un paio non vengano, diciamo in qualche modo, se protetti e garantiti evidentemente dall'ambasciata italiana tramite scorte e procedure di sicurezza, potrebbero rimanere lì una persona o due a presidiare il campo. Temete per i contratti, perché insomma voi fate impiantistica industriale, no? Beh, in questo momento noi siamo coinvolti proprio in un progetto lì in raffineria, che è un progetto di modernizzazione del sistema di controllo della raffineria, ed è un progetto molto sensibile. Sì, temiamo del contratto, anche se il contratto ormai è una fase abbastanza avanzata, quindi potrebbe essere semplicemente, tra virgolette, così, bloccato. Noi abbiamo già chiesto ovviamente una sospensione del contratto per causa di forza maggiore, i contratti normalmente prevedono questa ipotesi. E quindi diciamo che da un punto di vista economico, legale, potrebbero esserci, diciamo, le tutele sufficienti. Ovviamente allora mi può ridare il nome del sito dove state facendo come punto di raccolta anche per gli altri italiani in quell'area? Il paese, il villaggio, diciamo, è Azzavia. Azzavia. Azzavia, che si trova, mi diceva, a 50-70 km da Tripoli. 40 km, diciamo, da Tripoli in direzione Tunisi. Quindi sulla parte non verso la Cirenaica. No, esatto. Allora, dottor Santelli, siccome l'abbiamo no, lo stiamo ricercando perché voglio sapere per gli investimenti, chiedo invece, grazie anche al dottor Bevilacqua, a dottor Incerti e Massimini, un minuto di pazienza perché abbiamo anche il traffico a quest'ora, poi la posizione di Italfarm, la borsa, il ragionamento con Santelli sul quanto temono sugli investimenti, gli accordi già firmati, e l'analisi invece più di scenario. Vi devo dare però una notizia in questo istante. Allora, il ministro degli esteri britannico Hugg ha detto che Gheddafi sarebbe in volo verso il Venezuela. È un flash di agenzia, non ho altro in mano. Il ministro degli esteri della Gran Bretagna Hugg ha citato informazioni che indicano che Gheddafi si starebbe dirigendo in volo verso il Venezuela, e cioè da Chavez. Storica l'alleanza tra i due. Se fosse così, saremmo una svolta fondamentale e anche repentina, visto che gli scontri sono iniziati 4 giorni fa, ma sono degenerati soprattutto nelle ultime ore, nelle ultime 24-48 ore. Il traffico. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Manco il tempo di leggere l'agenzia che Gheddafi starebbe volando verso il Venezuela, che il Venezuela smentisce. Un alto dirigente dell'ufficio del presidente venezuelano Chavez ha smentito che Muammar Gheddafi sia in viaggio verso il Venezuela. A parte che l'ha smentita, in questi casi è quasi d'obbligo, però a mio avviso la cosa più importante è che stanno iniziando a circolare, come è già avvenuto per Ben Ali prima e per Mubarak dopo, le ipotesi di un Gheddafi che sta lasciando il paese. Voglio dire, se la situazione fosse sotto controllo, nemmeno avremmo queste indiscrezioni. Comunque, dottor Santelli, abbiamo ripreso, l'ho fatto richiamare Santelli perché mi mancava un suo commento sul quanto temete che i vostri contratti come gruppo Bonatti possano essere a rischio, visto che voi avete 1000 persone lì, di cui appunto 40-50 italiani. Sì, sono a vostra disposizione. No, mi dica. Allora, noi siamo un gruppo ormai mondiale, lavoriamo in 11 paesi, la Libia rappresenta per noi il 10% del totale giro d'affari. È naturale che anche se solo un 10% oggi siamo ben lontani dal fare i salti di gioia per quanto sta accadendo. Beh, certo. Abbiamo diversi asset impegnati nel paese, abbiamo la gestione e il management di numerosi mezzi e personale. Non mi soffermerei poi tanto sull'equipment a disposizione, ma anche soprattutto sul numero di personale che abbiamo, perché abbiamo parlato di 45-50 italiani, ma sono anche tanti libici che lavorano con noi e continuano a lavorare con noi in totale e fattiva collaborazione. Ha avuto altre notizie nel frattempo? No. Ma non sono soltanto personale italiano o poco altro personale dell'Europa dell'Est a lavorare con noi come personale straniero, ma anche moltissimi TCN, cioè sarebbero asiatici. Sì, non dicevo, ma in questa mezz'ora ha avuto altre notizie dai vostri stabilimenti in Libia? No, effettivamente no, non ci sono stati aggiornamenti, okay, perché sono gli stessi di prima, cioè non ci sono vittime, non ci sono danni ai nostri mezzi, c'è cioè una forte preparazione e controllo su quanto possiamo fare. Quindi, mi dica in una battuta, sulla base della vostra esperienza, poi quando si verificano queste situazioni, i contratti poi dal nuovo establishment vengono rispettati, cioè sono contratti che poi che servono al paese? È difficile dirlo. Se prendiamo l'esempio dell'Egitto, dove l'esercito ha sostituito una situazione di caos incontrollabile, probabilmente nel caso dell'Egitto, dove abbiamo altre attività, ciò non succederà, quindi non saranno lesi i termini di nessun contratto. Sì, l'Egitto potrebbe auspicarsi lo stesso destino a questo punto. L'Egitto è il caso migliore, vediamo se poi, come sembra circolare dalle indiscrezioni, saranno anche nel caso libico i militari. Già Gheddafi era un militare, il colonnello, e quindi se, come sempre, i militari saranno quel lago della bilancia per gestire la transizione senza cadere, diciamo, nell'anarchia da un lato e nell'eccesso di presenza della parte più estremistica del mondo musulmano. Comunque, grazie anche lei, grazie di nuovo Santelli. Vorrei concludere questo giro di imprese con il dottor Incerti Massimini, perché voi invece che fare impiantistica, come spiegavo, fate impianti agricoli, non, cioè, invece che lavorare nel settore oil and gas, impianti agricoli per il trattamento degli ortaggi. Quante persone avete giù, o se le avete già rimpatriate tutte, e dove sono? Il nostro lavoro si sviluppa su tutto il territorio. Noi facciamo impianti per trasferimento di prodotti agricoli, tra i quali abbiamo completato adesso 4 grandi impianti molitori anche, e sono più altri impianti per la trasformazione di altri prodotti, ma che insomma hanno dato in questi ultimi 2-3 anni diverse decine di migliaia di euro di lavoro a noi e ai nostri subfornitori, e il lavoro si è su tutto il territorio, partendo da est, Derna, una delle città appunto coinvolte negli ultimi tumulti, fino a ovest, Sabrata, che è uno dei luoghi in cui dei siti degli ultimi, uno dei nostri ultimi progetti grandi. Noi adesso abbiamo giù un paio di italiani, gli altri sono rientrati già da una decina di giorni, perché avevamo già sentito, diciamo così, già in odore la situazione, e come già qualcuno degli altri territori ha detto, avevamo già predisposto questa situazione di emergenza, e devo ringraziare, credo che anche gli altri territori debbano fare, perché per noi sta facendo un lavoro eccellente all'ambasciata, monitorando tutto il nostro personale continuamente con una gentilezza e una capacità straordinaria. Beh, sono contento, insomma, siete d'accordo, sono d'accordo anche gli altri imprenditori, grazie obiettivamente al lavoro dell'ambasciata italiana a Tripoli, spesso critichiamo il nostro... Tra l'altro, dottore, con per tempo, perché noi abbiamo ricevuto i primi messaggi dalla sicurezza e anche dalla rete commerciale, il dottor Catalano, fin dai primi, dalle prime settimane, dai primi scaramucci in Egitto, e avevano già predisposto appunto i luoghi che già qualcuno prima ha annunciato. Tutti gli operatori sul posto hanno a disposizione le mail che l'ambasciata ha dedicato a tutte le imprese presenti, indicando i punti di raccolta. Bene, quindi voi non avete praticamente più nessuno, perché grazie al lavoro... Noi abbiamo un paio di persone, in situazione delicata. Ecco, a Bengasi? A Bengasi, sì, perché Bengasi è effettivamente... Ma che cosa vi dicono i vostri dipendenti da Bengasi? Ma noi, tra l'altro, uno dei nostri che parla perfettamente anche la lingua locale, conosce usi e costumi, seppur italiano, è da tanti anni, che noi siamo da 25 anni che siamo... E lui abita là, è residente là e quindi si muove come... E che cosa vi ha raccontato nelle ultime ore? Purtroppo c'è una situazione di sicurezza scarsissima a causa dell'anarchia e del caos totale. Cioè, vi sta dicendo che Bengasi non è controllata più dalle forze di sicurezza? Ma, sa, questi sono problemi che noi non riusciamo a raggiungere e ad avere... No, io volevo solo capire la testimonianza del vostro dipendente sul Bengasi. Sul posto certamente c'è caos totale. E quindi lui si tiene lontano e quantomeno ha fatto le provviste necessarie affinché... E l'unico problema sono le comunicazioni. Adesso, per fortuna, già lo annuncio anche agli altri che possono ascoltarci, ci sono due operatori in Libia, uno è il Libiano e l'altro è il Madar. Il Libiano a Bengasi funziona e quindi in qualche modo si riesce a raggiungere chi ha la scheda libiana. Purtroppo chi è là residente non trova più la disponibilità nei negozi, per quei pochi che sono aperti, delle schede telefoniche disponibili. Ma quindi però riuscite a contattarli? Sì, anche grazie anche all'ambasciata, perché l'ambasciata ha fatto un servizio con i cellulari satellitari, per cui in qualche modo si riesce a avere contatto con loro. Allora, in bocca al lupo anche a voi. Grazie. E a tutti i dipendenti italiani che sono giù, abbiamo cercato di raccontarvi quattro storie esemplificative. Adesso c'è il GR, poi passiamo alla borsa. Tanto di cosa volete che parliamo oggi sulla borsa? Meno 3,60%, è tutto libico l'effetto su Piazza Affari. Ricordo che Wall Street è chiusa, e poi un'analisi un po' più aggregata degli investimenti, degli interessi italiani in Libia e delle tensioni sul petrolio. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver ascoltato la testimonianza di imprenditori che hanno dipendenti anche italiani, ma non solo, in Libia, e avete sentito casi diversi, ma insomma chi ha già evacuato per tempo, chi invece sta raccogliendo le persone nei punti di raccolta indicati dalla Farnesina, chi li ha raccolte già a Tripoli. Tutte queste informazioni che ci hanno raccontato gli imprenditori. Adesso passiamo alla parte che riguarda i mercati, sempre come effetto libico, e poi anche il ruolo degli interessi italiani complessivamente dati in Libia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, sulla borsa è ovvio che Wall Street oggi è chiusa, si festeggia infatti Washington, il President Day, meno 3,60% Milano contro il calo dell'1,4% di Parigi e di Francoforte e dell'1,1% di Londra. I titoli più colpiti sono quelli che hanno la maggiore esposizione in Libia, o perché lì operano, come nel caso di Impregilo, meno 6,20%, e lì il timore sui contratti futuri, Eni appunto meno 5,1%, e così anche Saipem meno 4,40, o perché hanno una partecipazione libica nel loro capitale. E questo è il caso soprattutto di Unicredito, perché tra Banca Centrale Libica e Fondo Sovrano Libico siamo al 7,5% di presenza dentro Unicredito. Ricorderete, causò lo scontro con Profumo questo ingresso, perde il 5,75%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, faccio un breve riassunto dei vari titoli coinvolti, perché insomma di questo oggi parliamo. Sì, come hai detto tu, appunto Unicredit ha il 7,5% dei libici nel capitale e quindi è andata giù. D'altra parte sono andate giù tutte le azioni bancarie, non solo a Milano ma in tutta Europa. Il sottoindice ha accusato la peggiore performance. Poi, come hai detto tu, in pregilo meno 6,17%. Del resto la società sta portando avanti importanti progetti infrastrutturali del valore di oltre 1 miliardo di euro. Inoltre Eni è il primo operatore in Libia per l'estrazione di gas e di petrolio. Alcuni analisti hanno calcolato che nel 2010 la produzione libica per Eni ha rappresentato il 13,4% dell'intera produzione, quindi inutile dire che le azioni hanno perso oltre il 5%. Ed ancora Ansaldo STS ha fatto meno 5%, la società ha siglato un contratto da 750 milioni per realizzare un progetto ferroviario, ma ancora ci sono altre società che sono strettamente legate alla Libia. Finmeccanica ha nel capitale il 2%, ai libici al 2%, e inoltre ha siglato accordi con il colonnello Gheddafi per progetti di oltre 1 miliardo di euro. E poi ricordiamo che anche nel calcio la Juventus ha perso il 2,3%, ma vede nel capitale la presenza dei libici con una quota importante pari al 7,5% delle azioni totali. Allora, attenzione, perché c'è un'agenzia in questo momento che dice che in tutte le basi aeree italiane il livello di allarme è massimo in relazione alla crisi libica, lo diffonde l'ANSA. Non abbiamo invece conferme su Gheddafi, male anche il comparto assicurativo di riflesso, Eleonora, perché Fondiera, sai, il terzo peggior titolo, meno 5,20. Sì, il comparto assicurativo è andato male, non solo a Piazza Affari ma anche in Europa, meno 2% il comparto appunto europeo. Fondiaria SAI ha appunto guidato i ribassi, del resto negli ultimi mesi si può dire che è il titolo che si muove sempre amplificando quantomeno l'andamento del mercato. Allora, per il resto, male comunque tutti i bancari, Banco Popolare lo ricordavamo, meno 5,40, Intesa meno 5,1. È chiaro che poi una volta che arriva là le vendite vanno male tutti i titoli del settore. Monte dei Paschi meno 4,20, anche Fiat meno 3,40, Generali meno 3,30, Finmeccanica meno 2,70. Ma insomma la lista ve l'ha fatta già Eleonora Micheli, che ringraziamo. Grazie a te e a tutti i colleghi del Decoro sulle 24 ore. Buonasera. Allora, restiamo sul tema, ma dopo aver raccontato le esperienze di chi sta gestendo l'evacuazione degli italiani presenti, apriamo l'orizzonte, lo sguardo, per capire adesso quale scenario si pone. Lo facciamo con, da un lato, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, e dall'altro con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Patriotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Con noi. Allora, abbiamo ricordato con una scheda, con vari elementi, tutti i rapporti. Noi siamo il primo esportatore in Libia e il quinto importatore dalla Libia. La borsa è molto preoccupata in maniera diretta per le aziende italiane che sono lì presenti e anche per il capitale libico in Italia. Qual è la partita sul fronte finanziario e economico? Ce ne sono due partite distinte, giustamente, quella della finanza e quella dell'industria. Per quanto riguarda la finanza, abbiamo sentito un lungo elenco di società quotate italiane che hanno nel loro capitale una partecipazione riferibile ai fondi sovrani libici, perché di questo stiamo parlando. Beh, lì la situazione è meno allarmante in questo senso, anche perché trattandosi di partecipazioni finanziarie detenute in larga misura o dal fondi sovrani o direttamente dalla banca centrale libica, non sarebbero comunque oggetto di revisione o quantomeno di attacco da parte di qualunque regime subentrasse, presidenza o sistema o quadro politico subentrasse a quello di Gheddafi, in quanto il vero problema della Libia, come sta emergendo chiaramente adesso, non è un problema di qualità degli asset in cui è investito, ma è un problema di redistribuzione di una ricchezza petrolifera che ha dato un'enorme muscolatura finanziaria al regime di Gheddafi, ma quasi zero ai suoi cittadini. Questo è il motivo della rivolta. Quindi è difficile dire che la partecipazione della Libia in Unicredit possa in qualche modo aver destato o creare delle preoccupazioni di liquidazione, anche perché trattandosi di miliardi veri, non è che vai a venderlo al souk o li metti sul mercato improvvisamente e trovi chi ti compra il 7% di Unicredit, quindi sicuramente non è questo il problema, come non è il problema per le altre società, e parliamo principalmente di Odieni o di Finmeccanica, in cui sono stati fatti gli investimenti. Diverso è il conto dell'industria, e qui entriamo in un campo che, da cui emerge tutta la fragilità un po' strutturale del nostro sistema delle esportazioni. Noi l'avevamo già visto con l'Egitto, già in Egitto era stato un po' l'anticipo di quello che sarebbe stato successo. Perché? Perché non siamo assicurati, perché al contrario degli altri grandi operatori, diciamo così, grandi protagonisti dell'export internazionale, sia europei che internazionali, le nostre imprese purtroppo non hanno la caratteristica di una valutazione del rischio vera di dove vanno a esportare. Cioè, qui siamo bravissimi noi ad esportare in ogni angolo del mondo, ma siamo assolutamente non bravi, non siamo all'altezza dell'export, dei numeri dell'export che abbiamo, nel saperci assicurare le nostre esportazioni di beni e servizi in quei paesi dove esiste un rischio politico pesante. Infatti domani cercheremo di avere anche il numero uno della SACE, che è il gruppo assicurativo italiano. Posso darvi dei dati che sono veramente allarmanti. Se pensate che abbiamo detto l'Italia è un principale esportatore in Libia, battiamo la Cina, se i nostri investimenti nel 2010, anzi le nostre esportazioni nette di beni e servizi, quindi lasciamo perdere il petrolio, nostre esportazioni in Libia 2010 16 milioni di euro. Scusatemi, 2,5 miliardi di euro assicurati, 16 milioni. Sì, questa non è colpa solo della SACE, anzi, ma è anche... non colpa della SACE, anzi la SACE è la SACE... controparte. Il problema vero qual è? Che le imprese non si assicurano. Voi pensate che si calcola che le assicurazioni in Germania, cioè più del 50% dell'export tedesco è assicurato. Allora qual è il punto? Oggi si stanno chiedendo tutti se non sia il caso di rivedere le nostre politiche di aiuto alle piccole e medie imprese, includendo l'assicurazione dell'export all'interno degli aiuti. Certo. Perché se il problema è che assicurarsi costa, ed è vero, è anche vero che l'interesse nazionale in questo momento è aiutare le imprese a coprirsi del rischio di esportare in quei paesi. Perché sennò poi ricade su di noi e sulla collettività il conto. È in collegamento anche Davide Tabarelli, chiedo un minuto di pazienza al traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dottor Davide Tabarelli, era un po' che non ci sentivamo e devo dire che non mi dispiaceva la cosa, perché quando lei interviene è sempre per le tensioni sul petrolio. In realtà qui parliamo di petrolio che è tornato sopra i $104 al barile a Londra, il livello più alto da settembre del 2008, quindi da prima della crisi, ma parliamo anche del peso che ha la Libia come riserve di energia al mondo, produttore, il quinto produttore di energia al mondo, insomma, e anche fornitore di gas. Prego. Sì, è uno dei grandi produttori di petrolio, uno dei più grandi di petrolio, cioè ha riserve per 70 anni e riserve di petrolio, riserve di gas per 120, perciò ci sono grandi potenzialità, fra l'altro una popolazione di 6 milioni, a differenza dell'Algeria che sono 43 milioni, o l'Egitto che sono 80 milioni, è un paese piccolo, molto disperso la popolazione, grandi potenzialità che una compagnia italiana da molti anni ha saputo sfruttare per, speravamo meglio, per la Libia. Niente, poi il problema è che se smettono di esportare, il mercato del petrolio non vede l'ora di essere rialzista come è stato negli ultimi 4 anni, e il problema, l'aggravante per noi, è che gran parte di questo petrolio viene esportato verso l'Italia, perché sono 30 milioni di tonnellate di greggio e prodotti, che sono quasi il 40% del nostro consumo di petrolio, più 8 miliardi di gas, che sono il 10% dei nostri consumi di gas, messi insieme sono circa 40 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, che sono il 20% dei totali dei nostri consumi energetici. Insomma, è molto importante. Fra l'altro l'Italia è il paese dove più ha investito la Tamoil, l'Oil Invest, tutti noi conosciamo i punti vendita, i distributori della Tamoil, cioè la raffineria di Cremona che sta chiudendo, e perciò quelli di Cremona che speravano che rimanesse aperta l'impianto, sì, adesso possono essere. Ecco, lei faceva riferimento a una grande compagnia italiana, Eleni, che storicamente ai tempi di Mattei, certo, i rapporti con... Non ho capito il suo passaggio, però, Tabarelli, se me lo ripete. Sì, l'Eni da sempre, io non so, l'Eni è stata fondata con questa visione del grande Mattei di andare nei paesi produttori e bypassando le grandi compagnie americane portare direttamente l'energia, il petrolio, il gas all'Italia. Una di queste visioni era quella del gas. Invito tutti a guardare il film di Rose, il caso Mattei, dove c'è una scena che si vede Mattei che guarda questo gas che viene bruciato a bocca di pozza perché non serviva a niente quando si produce col petrolio, e si decide allora di fare questo lungo gasdotto che veniva in Italia, che è il Transmed. Certo. Nel 98 si decise il Green Stream, che invece è quello che viene dalla Libia, che è molto più difficile perché attraverso acque più profonde arriva giù a Gela e poi anche quello nel sistema nazionale. Insomma, il legame al di là di Gheddafi c'è stato prima, ci sarà anche in futuro, perché di petrolio lì ce n'è tantissimo. Grazie Davide Tabarelli, ci interessava chiaramente il focus per quello che è il primo, se non principale, prodotto di esportazione della Libia, cioè gas e petrolio. Alessandro Paterotti, mentre devo leggere un paio di agenzie, perché al di là dei bombardamenti non confermati sulla folla, come riportava Al Jazeera, il vice ambasciatore libico all'ONU ha invocato un intervento internazionale contro quello che ha definito un genocidio perpetrato dal regime di Tripoli, quindi da Gheddafi, e ha chiesto che venga istituita anche una no-fly zone su Tripoli. Questo sembrerebbe confermare indirettamente i bombardamenti sui manifestanti. Ancora, altre agenzie riportano come le forze di sicurezza libiche stiano sparando contro i dimostranti diretti verso il compound dove vive Muammar Gheddafi. Praticamente le linee telefoniche in Libia risultano ancora quasi tutte bloccate. Alessandro Paterotti, qui obiettivamente ha ragione Tabarelli nel dire che i mercati ci sguazzano su queste tensioni, che non vedevano l'ora di trovare una scusa per spingere carta su carta sul petrolio. Ma qui adesso gli scenari, le prospettive e le riflessioni da fare, per quanto sì, siamo ancora in piena emergenza, quali potrebbero essere? È la prima, è che qui paghiamo un nodo che da anni i grandi centri di ricerca internazionale sul settore energetico, il governo americano soprattutto, ci rimprovera, ovvero una dipendenza eccessiva da paesi ad alto rischio. La nostra strategia è stata quella di cercare petrolio ed energia a buon mercato, gas a buon mercato, senza, ritorniamo a contare, quali erano i rischi e, ripeto, anche dai file di Wikileaks l'avevano un po' evidenziato questo aspetto. Attenzione, perché dipendere dalla Libia e dalle ex repubbliche sovietiche significa dipendere da quei regimi. Cioè, se una rivoluzione, un blocco, un ricatto possono mettere in ginocchio il nostro paese, perché non abbiamo una diversificazione di fonti energetiche, non è stato fatto un piano energetico nazionale vero da anni, torniamo a discutere oggi di energia nucleare e con mille difficoltà, non c'è una lungimiranza, come del resto non avevamo un piano dei trasporti, ma questo è un altro problema, non c'è stata una lungimiranza in questo senso politica di rischio paese nella definizione del nostro quadro di approvvigionamenti. Il buon mercato nel lungo periodo può diventare cattivo mercato, è quello che sta succedendo adesso. Ecco, sull'ENI, allora vedo che molti messaggi riguardano la politica estera del governo italiano, non è questo il tema. Certo che c'è stato, ma lo sanno anche i sassi, un rapporto strettissimo tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e Muammar Gheddafi, da polemiche quando è venuto qui con la tenda da Berbero e quant'altro. Il problema, a mio avviso, non è avere buoni rapporti con la Libia, che ci vogliono perché siamo dirimpettai, è, come ricordava Alessandro Paterotti, non diversificare, perché oggi Alex Miller, ossia Gazprom, si sta sfregando le mani, dice un po' problematico quella fornitura di gas. Non solo, abbiamo rivisto da poco i contratti proprio con la Russia sull'approvvigionamento di gas sulla base della stabilità della fornitura libica. E adesso? Sì, perché quei contratti sono stati fatti immaginando che la Libia avrebbe continuato a fornire. Sì, diciamo che è dividere ciò che è rischio politico da necessità energetica, bisogna sempre dividere i due elementi, ormai non è più possibile. Bisogna anche dire che molti paesi produttori di petrolio, lo sappiamo, ahimè, da Venezuela agli Emirati Arabi, non hanno democrazie, per cui è difficile anche fare accordi con regimi stabili, forse diversificare di più. Che la situazione sia degenerata ve lo spiega anche questa dichiarazione che molti di voi ci chiedono di riascoltare. Paolo Scaroni, venerdì, raggiunto dal nostro Vincenzo Miglietta, era ancora cautamente positivo sulla situazione in Libia, questa dimostrazione che poi tutto è degenerato o ha preso un'accelerazione nell'ultime 48 ore. Sentiamo il numero dell'ENI venerdì scorso. Molto importante per noi, la Libia è un paese fondamentale, un paese strategico, siamo in Libia anche lì da molti anni e continuiamo a esserci. Sì. Queste tensioni di queste ore? Ma non mi sembrano delle tensioni particolarmente forti, certo Bengasi ha una tradizione così di essere una città molto attiva e quindi certe cose possono succedere, ma non mi aspetto niente, devo dire. Ecco, i vostri investimenti sono sicuri al momento in Libia? Sì, sì, continuiamo a investire, la nostra attività prosegue regolarmente. Ma Eni in Tunisia ha fatto tanto, siamo lì dal 1960, pensi che solo di tasse, di royalties abbiamo versato in Tunisia $1.5 miliardi in questi anni, continuiamo a lavorare lì. È un paese in cui siamo felici di essere, anche se da un punto di vista petrolifero non ha certo le risorse dei suoi vicini Algeria o Libia, però abbiamo delle buone speranze, abbiamo fatto delle nuove scoperte, abbiamo molte idee, pensiamo di investire ancora $500 milioni nei prossimi 3 anni. Ecco, questa dimostrazione che la situazione è appunto è accelerata, se anche l'ENI, che è il gruppo più importante da sempre presente in Libia, avete sentito Scaroni, venerdì non riteneva che la situazione sarebbe potuta arrivare a questi livelli. Alessandro Pratarotti, in una battuta, perché stiamo chiudendo il tempo, dicono gli ascoltatori, tutto vero, però purtroppo le risorse energetiche spesso si trovano, tra virgolette, nei paesi sbagliati, cioè nei paesi dove il rischio è alto, e quindi assicuriamoci, ritorniamo al punto di vista iniziale. Allora, se proprio dobbiamo fare affari con le persone meno trasparenti del mondo, cerchiamo almeno di tutelare le nostre imprese che mandiamo lì a lavorare in quelle zone. Questo è il fatto grave. Io capisco che costa sempre meno portare la materia prima energetica dai paesi che sono più vicini, ma è anche vero che ci avevano messo in guardia tutti i paesi occidentali dalla nostra eccessiva dipendenza da quelle aree. Allora, abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto, invece di pagare le grandi società energetiche americane, meglio andarla a prendere. Certo, ma era meglio ribilanciare anche qualche tempo fa, quando i prezzi del petrolio erano la metà di quelli attuali, le nostre dipendenze. Detto questo, chiaramente vedo che alcuni di voi ci chiedono se sarà anche un problema di politica estera, perché chi verrà al posto di Gheddafi farà pagare all'Italia il rapporto con Gheddafi. Allora, non lo sappiamo al momento, perché se va come in Egitto, in realtà diciamo, l'establishment ha cacciato Mubarak, ma sta garantendo la transizione, per cui se anche in Libia saranno i militari alla fine a avere il boccino in mano, probabilmente questo problema non si porrà. No, infatti non ci sarà un problema di vendette trasversali sull'Italia, perché assolutamente il popolo libico non ha nulla contro l'Italia, anzi semmai l'atteggiamento che aveva preso Gheddafi negli ultimi tempi era quello di rimproverarci e di frustarci ogni 2 ore sui nostri rapporti coloniali, quindi non è che c'è quel rischio là. Io credo che sia importante avere una transizione gestita dal mondo occidentale, gestita dai paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, in modo da evitare non solo lo spargimento di sangue, ma che si sparga poi panico nei momenti successivi e dopo anche sui mercati finanziari e in altri paesi. Staremo a vedere domani un altro giorno. Grazie Alessandro Pratarotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Berisoni veramente tutto, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.